Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi 3, versetto 15. Io porrò in amicizia tra te e la donna, e tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Nella storia dell'umanità ci sono momenti che definiscono il corso di tutto ciò che segue. Uno di questi momenti è la caduta di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Il paradiso si trasforma in un luogo di dolore e di rottura, ma in mezzo a quel disastro Dio pronuncia una promessa che cambierà per sempre il destino dell'umanità. Genesi 3,15 è conosciuto anche come il proto-Vangelo, il primo annuncio del Vangelo, in cui Dio promette che la progenie della donna schiaccerà la testa del serpente. È un bagliore di speranza in mezzo alle tenebre, una promessa che riecheggia a lungo tutta la scrittura. Considera la grandezza di questa promessa. Nello stesso momento in cui il peccato entra nel mondo, Dio ha già un piano per redimerlo. Questo versetto è una dichiarazione di guerra contro il male, ma anche una dichiarazione di vittoria, che culminerà migliaia di anni dopo su una collina chiamata Golgota. Cerchiamo di comprendere questo passaggio. Genesi 3,15 è un passaggio carico di significato. La progenie della donna e la progenie del serpente rappresentano la battaglia cosmica tra il bene e il male, tra i figli di Dio e i seguaci di Satana. Ma il fulcro centrale di questo versetto è la promessa di un Salvatore. L'espressione «questa ti schiaccerà il capo» è un riferimento velato alla vittoria finale di Cristo su Satana, mentre Satana ferirebbe Cristo al calcagno attraverso la sua crocifissione. Cristo, mediante la sua resurrezione, schiaccerà la testa di Satana, assicurando la sconfitta del male. Il contesto di questo passaggio è cruciale per comprendere l'importanza. Adamo ed Eva avevano peccato e il paradiso era infranto. Tuttavia, invece di abbandonare l'umanità alla disperazione, Dio avvia un piano di redenzione concepito prima della fondazione del mondo. Questo piano non implica solo la restaurazione dell'uomo, ma anche la sconfitta di Satana, il nemico delle nostre anime. Nel Nuovo Testamento questa promessa trova il suo compimento in Cristo. In Romani 16,20, Paolo assicura ai credenti che il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La vittoria che ebbe inizio nell'Eden si è completata sulla croce e ogni credente partecipa a quella vittoria attraverso la fede in Cristo. Questo versetto dunque non ci parla solo del conflitto, ma anche della speranza e della certezza della vittoria in Gesù. Tre verità bibliche in questo passaggio. Numero 1. Confida nella vittoria di Cristo. Anche se affrontiamo tentazioni e lotte, possiamo vivere con la sicurezza che Cristo ha vinto il nemico. Ogni volta che ci troviamo di fronte al male, ricordiamo che la vittoria è già stata conquistata. Numero 2. Aspetta la redenzione completa. La promessa di Genesi 3,15 ci ricorda che il male non avrà l'ultima parola. Come Dio ha adempiuto la sua promessa di inviare un Salvatore, così adempirà la sua promessa di restaurare tutte le cose. Vivi con speranza, sapendo che la redenzione completa è in arrivo. Numero 3. Vivi alla luce del Vangelo. Questo versetto ci indica il Vangelo fin dal principio. Lascia che la verità della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte trasformi ogni aspetto della tua vita. Vivi con la fiducia e la libertà che derivano dal sapere di far parte del piano redentore di Dio. Riflessione. Genesi 3,15 porta quindi al cuore della narrazione biblica la battaglia tra il bene e il male e la promessa di redenzione attraverso Cristo. Mentre viviamo in un mondo caduto, possiamo avere la fiducia che la vittoria finale appartiene al nostro Signore. Lascia che questa verità ti dia speranza e forza in ogni lotta, ricordando che la promessa fatta da Dio nell'Eden è stata adempiuta sulla croce e che un giorno vedremo il compimento completo della sua vittoria. Preghiamo. Signore, grazie per la tua promessa di redenzione e di vittoria in Cristo. Aiutami a vivere con la sicurezza che il male è stato sconfitto e che in te ho la vittoria. Guidami affinché possa riflettere nella speranza in ogni aspetto della mia vita. Amen. Oggi leggiamo Genesi 3, Matteo 3, Esdra 3 e Atti 3. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!